Sono pronto. Sono convocato. Sono stato convocato. Siamo state convocate anche noi. Mister, siamo convocati. Sono convocato. Mister, ci sono. Andiamo. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. E anche Edoardo Lavezzari, autore di questa puntata, Roberta Frisani, dietro il vetro. Allora, i risultati li avete sentiti, e mancano ancora l'appello Lecce Torino, Udinese Inter e domani Sampdoria Napoli. Risultati che hanno partorito in una domenica, e adesso ne parliamo, di grandi polemiche, questa classifica. Juventus 54 punti più 5 sulla Lazio, che ha una gara da recuperare e lo farà in settimana in casa contro il Verona. Inter in questo momento terza, quota 48, la vedremo questa sera a Udine. Poi le due frenate di Atalanta e Roma, che condividono il quarto posto a quota 39, alle spalle anche in zona Europa League non ha vinto nessuno. Cagliari, Parma e Milan 32 punti, Verona 30, così come il Bologna che ieri ha battuto il Brescia. Nella parte bassa della classifica Brescia e Spal, che restano a questo punto da sole, fanalino di coda a quota 15, perché il Genoa ha preso un punto importante a Bergamo contro l'Atalanta, ha agganciato il Lecce in attesa di seguire alle ore 18 Lecce-Torino. Lecce e Genoa, che hanno 16 punti e che in questo momento condividono la terz'ultima posizione. Questa è la bussola della domenica, adesso il menù. Allora, intanto saluto Carlo Genta, ciao, ciao Giovanni, Carlo. Ciao a tutti. Saluto anche te, Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao ragazzi, ciao. Allora, ci state inondando di messaggi, SMS e WhatsApp 349-238-6666, numero verde per intervenire in diretta fino alle 19. 800 24 0024. Vi dico subito che Varanatomi, oggi l'appuntamento con Luca Marelli è alle 18.45 e sarà un appuntamento ricchissimo, perché analizzeremo tutto quello che è successo e non solo i due episodi che hanno fatto infuriare il presidente commisso in Juventus-Fiorentina. Ore 18.45, appuntamento con Varanatomi. Allora, se siete d'accordo, Carlo e Pier, partiamo dalla questione arbitrale. Che cosa è successo in Juventus-Fiorentina? 3-0, due calci di rigore concessi alla Juventus, entrambi realizzati da Ronaldo, in entrambe le situazioni c'è un on-field review, il primo per un mani di Pezzella, il secondo per un contatto di Ceccherini su Bentancur. Dopo la partita, così il presidente proprietario della Fiorentina ha commisso: io credo che la Juventus è, quanto c'ha? 350 milioni di ingaggi che paga i giocatori loro, non c'ha bisogno dell'aiuto degli arbitri, ok? Lascia che la partita si vince o si perde nel campo, no, tramite i regali che ci fanno gli arbitri. Questo non è giusto per il calcio italiano. Vedi che il calcio italiano è veduto in tutto il mondo. Quando vedono queste porcherie, puri quelli fuori dall'Italia si disgustano di quello che vedono qui. Pochi minuti ed è arrivata la risposta del vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved. Siamo stufi di questo andamento, perché c'è un po' di tempo che si usa la Juventus in modo sbagliato, perché la Juventus vince con il merito, vince sul campo, decisioni le prendono arbitri, ci abbiamo anche VAR. Allora è andato a rivedere le cose, perciò è giusto che le partite vanno decise sul campo, tutto qui. Pier. Sì, qualche risposta, ma insomma sugli episodi adesso non so, tu vuoi parlare delle 18.45, la mia idea, che poi è quella di Guidolin, è quella di Balzaretti, penso sia anche quella di Marelli onestamente, è che il primo rigore c'è, nel senso il primo rigore nasce da una giusta un field review, secondo me l'arbitro aveva in tempo reale, secondo me aveva visto l'intervento col braccio destro che era lungo il corpo. Invece in realtà, rivedendo le immagini al monitor, si vede chiaramente che il contatto è con il polso sinistro, la distanza è tanta, l'attitudine del difensore a giocare il pallone. Sì, quindi diciamo il primo rigore c'è. Il primo rigore c'è. Ok, perfetto. Il primo rigore c'è, il secondo rientra in quegli episodi sui quali si può discutere, però io non avrei dato il secondo rigore. Carlo? Perché secondo me è un contatto. Primo c'è, secondo, il primo rigore c'è, il secondo probabilmente non c'è, è un grande classico, il rigore per la Juve che fa infuriare il commesso che sta imparando molto in fretta, usi e costumi e anche il linguaggio del calcio italiano. Sì, perché poi il grande tema, al di là, e ripeto, la moviola con Luca Marelli la facciamo alle 18.45, però più o meno anch'io condivido la lettura di Pierre e di Carlo su questi due episodi. Allora, il grande tema è però l'attacco che commesso fa al sistema Italia, quello. Perché quello che dice va oltre l'amarezza per una partita persa dalla Fiorentina, tra l'altro poi anche in maniera larga, e io su questo credo, ma questa è una mia opinione, voglio sentire anche voi da casa, 800 24 00 24, che commisso abbia inserito su una legittima arrabbiatura per un episodio che di fatto quella partita l'ha chiusa, il rigore del 2-0, un discorso in cui è andato un po' lungo. Sì, sono d'accordo. Pier. È andato certamente lungo perché insomma mi sembra una grande polemica nei confronti della Juventus e del calcio italiano. Pier. Sì, a parte che non c'era più tutto, ribadisco, se avete il primo rigore c'è, il secondo. No, ma si è sentito Pier, si è sentito tutto, vai avanti. Come quello dell'Inter della settimana scorsa, con Gagno, non c'era, è molto simile come tipo di situazione. No, è andato un po' lungo, sono d'accordo, nel senso che preso diciamo dall'adrenalina della partita ha fatto uno sfogo molto duro, molto pesante, per quale va detto ha fatto riferimento ad altre partite della Fiorentina, quella contro l'Inter, quella contro Genoa, e mi scuso se non mi ricordo altre partite. No, lui ha fatto riferimento a queste due partite. Sì, a queste due partite, ok, perfetto. Quindi questo insomma è chiaro che la polemica c'è, la Juve si è sentita subito dover rispondere. Sì, io trovo che commisso non abbia fatto, non abbia reso un buon servizio nemmeno a se stesso, oltre che al calcio italiano, allargando così lo spettro della polemica, ripeto, per una arrabbiatura che poteva anche essere legittima su quell'episodio. Ti dà fastidio l'idea che, visto anche al VAR, ti venga dato contro quel calcio di rigore. Sì, si fa notare, però questo è un campionato, secondo me, in cui due settimane fa parlavamo di Lautaro Martinez contro l'Atalanta, altre volte abbiamo parlato, assolutamente. Io poi Dire che le partite in Italia sono decise dagli arbitri, virgolettato di commisso, non sto interpretando, io credo sia sinceramente un'esagerazione di cui avremmo fatto meno. Credo, e lo ripeto spesso e non cambio idea oggi, per un rigore che, ripeto, secondo me è stato generoso, però sull'1-0 per la Juve, cioè comunque una partita che la Juve al quarto d'ora fine sta vincendo, questo va detto, non è un episodio che ha deciso la partita. Poi certo, la Fiorentina magari senza quel rigore poteva avere l'aspirazione di pareggiarla, però voglio dire, di questo stiamo parlando. Io ripeto quello che dico sempre, cioè che c'è tanti errori, ma io continuo a non vedere nessun vento da nessuna parte. Ogni settimana mi trovo con Graziano Cesari, con Marelli, a commentare gli episodi. Mi sembra che insomma qualche settimana fa Inter-Atalanta, l'Inter ha beneficiato di un favorino arbitrale, favorone, perché quello lì è un rigore netto. Sì, c'era anche settimana scorsa l'abbiamo raccontato, fino a dopo il gol di Luca era buono, cioè, io continuo a non vedere, ma forse sono coinvolto, ma forse la Lazio credo abbia record di rigori, così restiamo alle tre che stanno giocando per lo scudetto. Infatti, cioè c'è, io anche chi polemizza su questo, però fa parte della stessa stagione, io continuo a non vedere nessun disegno, se devo parlare della classifica. Poi parliamone con Marelli e con Cesari, perché francamente insomma io ho tanti interessi nella vita, non mi metto lì a fare la conta degli episodi dalla prima giornata fino alla 22esima, però mi sembra di aver visto tanti errori, un regolamento che è molto discrezionale, una bar e un field review che spesso viene utilizzato in una maniera comunque poco, secondo me, dal punto di vista della comunicazione nei confronti del pubblico non adatta, secondo me, con tanti errori, e chiaramente l'asticella che si è alzata, perché da quando c'è il VAR si tende a limitare, a pensare che gli errori possano essere limitati, quindi tanti errori, ma io continuo a non vedere nessun vento che va nella direzione della Juve, parte nell'altra, a me in quella della Lazio. Per questo forse sarò io, ma non sono di Genova, perché credo che Marelli, poi glielo chiediamo, 18.45, ricordo l'appuntamento, che Marelli dica lo stesso, che Cesari dica lo stesso, aspetta lì Pier, a proposito di venti di Lazio, la Lazio il vento in poppa ce l'ha, perché tra l'altro ha due attaccanti meravigliosi come Caicedo e Immobile. C'è Simone Inzaghi che viene interrogato in questo momento in diretta ai microfoni di Sky. Lazio oggi devastante contro la Spal, secondo me a margini di crescita è un 2000. Viene da, no, sta parlando di Adenkaye del Liverpool, è un giocatore, sembra quotato, che gli vogliano tutti bene, vero? Molto, molto, perché è un ragazzo molto rispettoso, che si allena sempre nel migliore dei modi e sta cercando insomma di trovare spazio in un attacco come il nostro, dove volendo posso alzare anche Luis Alberto e Milinkovic a giocare da sottopunta. Sì, perché allora questo Inzaghi oggi Immobile è salito a quota 25 reti nelle prime 21 partite. Mercoledì ci sarà il recupero con il Verona. Lo allinerà alle 22 giornate di Higuaín, l'anno del record. Dopo la 22esima giornata Higuaín stava a quota 22 gol, quindi Immobile ha un vantaggio di 3 gol e una partita in questo momento rispetto a quelli di Higuaín. Allora abbiamo il traffico, chiedo un attimo di pazienza a Simone dalla provincia di Pesaro Urbino, 800 24 00 24, poi andiamo anche a San Siro al nostro Dario Ricci. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24 tutti convocati. Tutti convocati. Non eravamo nella miglior giornata, nonostante questo abbiamo creato tantissimo, abbiamo avuto un po' di blackout qualche volta sul rigore, sul gol preso, questo ci ha complicato molto la partita. Credo che alla fine dobbiamo essere soddisfatti così e di averla raddrizzata, perché queste partite poi dopo possono prendere pieghe diverse. Allora, questo Gasperini, microfoni di Sky. Atalanta che è stata fermata in casa dal Genoa 2-2, ha mancato il sorpasso sulla Roma che ieri ha perso Reggio Emilia contro il Sassuolo. Atalanta solo una vittoria nelle ultime 4 partite, Roma solo 4 punti nelle ultime 5 giornate. E fra qualche istante apriamo la pagina dedicata al Milan, che oggi ha perso una clamorosa occasione di rientrare addirittura nella corsa Champions. 800 24 00 24, Simone Pesaro Urbino, vai Simone. Buonasera, volevo dire due cose e fare una postilla. Una cosa, vai. Che sul primo rigore della Juventus, cioè, mi sembra Rabiot in fuorigioco. Ne parleremo proprio alle 18.45. Sì, no, non l'avete detto però, è proprio in fuorigioco. No, non l'abbiamo, ti annuncio che non l'abbiamo detto perché è una posizione totalmente ininfluente, ma 18.45 Marelli ci spiega tutto. Vai con la seconda cosa, Simone. La seconda cosa è che De Ligt è stato graziato diverse volte all'inizio del campionato con quei mani che sono punti che poi uno si porta a casa. La postilla: l'anno scorso il Milan ha perso la Champions per un punto, con la Juve ha fatto 0 punti. Di quegli episodi lì a favore del Milan ci sono stati 5-6 tra Torino e Milano. Ecco, dopo è come il cane che si morde la coda: se il Milan non entra in Champions non può spendere, però comunque condizionano, alla fine non ci sarà un disegno ma condizionano molto. Sì, però magari buonasera. Se vai a rivedere, ciao Simone, le altre 37 partite della scorsa stagione, magari anche qualche avversario del Milan, cito il Milan perché l'hai citato tu, puoi immaginare in qualche partita di aver avuto dei problemi. Alberto Ascoli Piceno, Alberto. Sì, salve, buonasera. Vai. Volevo fare una ponderizzazione sul VAR, non voglio entrare nel merito tra la questione tra Fiorentina e Juventus, ma semplicemente dire che è un peccato vedere delle partite dove a un certo punto vengono decise da situazioni di VAR in questa maniera, da rigoretti. Io capisco che il VAR sia ormai indispensabile per correggere degli errori dell'occhio umano, così, però viene meno quello che sono le gesta sportive del calcio. E un appassionato di calcio come sono io e come tanti altri tifosi, dispiace che partite belle come possono essere questa di oggi della Fiorentina-Juventus, Juventus-Fiorentina. Ma quindi lei non vorrebbe il VAR? No, io credo che sia veramente No. Ok. Allora ho capito bene. Io il VAR me lo terrei tutta la vita. Sì, no, ma si tratta di. È chiaro che farlo funzionare, se uno è un rigorone, il VAR non serve. Il VAR serve ad eliminare i rigoretti, come lei li chiama. Ma credo che il punto non sia. Poi uno si ricorda gli episodi che vuole, come l'ascoltatore di prima. Sì, sono abbastanza d'accordo. Allora, noi andiamo avanti, non ci fermiamo qui. Ricordo 18:45 VAR Anatomy, ma continuate anche a chiamarci 800 24 00 24. Carissimo Pier, andiamo a San Siro da Dario Ricci. Ciao Dario. Ciao ragazzi, bentrovati. Sono qua con Monica Colombo del Corriere della Sera. 1-1 tra Milan e Verona. Il Verona in vantaggio al 13esimo con Faraoni. Al 29esimo il pareggio di Çalhanoğlu su una punizione dal limite deviata dalla barriera. Poi nella ripresa due palli per il Verona con Pessina e Zaccagni. Un ottimo Verona, organizzatissimo come al solito da Juric. Poi al 23esimo, ed ecco qua che è entrato in campo il VAR, l'espulsione di Amrabat per un fallo su Castiglieco, fallo rivalutato appunto da Chiffi grazie alla moviola. Nel finale Milan all'arrembaggio, nel tentativo di sfruttare la superiorità numerica, ha trovato anche il Milan il suo palo, Monica, con sì. Castiglieco, ma l'1-1 non si è sbloccato. Un Milan volenteroso, però anche molto confusionario, tra i vari limiti emersi oggi, vuoi per le assenze, vuoi per il mercato. Tra l'altro ha debuttato nel finale anche il belga Selemakers, due sinistri. Il figlio di Maldini, un minutino nel tentativo di cercare il gol. Si è visto però, insomma, direi che soprattutto nel secondo tempo il flop non tanto di Rebic, soprattutto di Leao come centravanti. Sì, insomma, senza Ibrahimovic è tornato il vecchio Milan. Sì, del resto era facilmente ipotizzabile, perché da quando Ibra è arrivato in effetti il Milan non aveva più perso, anzi aveva anche ottenuto la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, quindi oggi c'era un po' di curiosità per vedere all'opera la squadra senza il suo totem e per giunta anche senza altri giocatori come Chiar, Krunic e all'ultimo Conti, quindi che le difficoltà fossero da mettere in preventivo si era già intuito prima del fischio d'inizio, diciamo. Le due punte che sono state utilizzate oggi, Rebic e Leao. Rebic ha mostrato grande voglia, corsa, ma è stato meno incisivo delle altre volte. Leao, mi pare che quelli che erano i dubbi che ci portavamo appresso nelle partite precedenti, ovvero se una prima o una seconda punta, continuiamo a tenerceli, perché comunque non mi pare che Leao possa essere utilizzato come prima punta. Oggi è sembrato più una terza, cioè sì. Nel senso che se ce ne fossero state altre due, probabilmente lui si sarebbe seduto in panchina in fretta. Terza punta in questo titolo. Il titolo è fin troppo facile. No Ibra, no parti. Anche perché il Milan non ha giocato in maniera diversa rispetto alle ultime partite, cioè ha sofferto un sacco. Non ha meritato, non avrebbe meritato la vittoria. E anzi, forse è andata bene. Il Verona ha preso due pali. La differenza probabilmente sta tutta nel peso specifico di quell'uomo là davanti. Sì, anche perché se è vero che anche il Milan ha preso appunto un palo nel finale, ma i due legni colpiti dal Verona erano stati precedenti, insomma, per gioco, compattezza, organizzazione, cioè il Verona è sembrato una spanna sopra il Milan. Anche arbitro dello scudetto a questo punto, perché adesso incontra Lazio e poi prossimo fine settimana la Juventus, sì, nel giro di una manciata di giorni. Sì, esatto, quindi anche questo ruolo la squadra di Juric, però mi sembra che non soffra di come dire, timore reverenziale nei confronti delle grandi, e anche quei giocatori che sono già stati opzionati da altre squadre per l'estate, come dire, non mi sembra che siano distratti o abbiano la testa altrove. Ecco, parlo di Amrabat, di Rahmani, Tra l'altro dello stesso Kumbulla, che sa che in qualche big finirà. Buttando l'occhio avanti, coinvolgo anche Pierluigi Pardo, domenica prossima noi saremo qui a raccontare le ore della vigilia di un grande derby tra Inter e Milan, un derby che a questo punto per il Milan rappresenta una sorta di bivio, perché lo dicevo prima, oggi il Milan ha gettato al vento una clamorosa chance di rientrare addirittura nella corsa Champions. Avesse vinto sarebbe stato il Milan a 5 punti da Atalanta e Roma, che sono in frenata, anche se l'Atalanta poi ruba l'occhio per le prestazioni che fa, ma la realtà è che ha vinto una partita nelle ultime 4 e in queste 4 ha perso in casa con la Spal e oggi ha pareggiato con il Genoa, quindi parliamo di due delle ultime 3 della classifica. E la Roma ha fatto, sconfitta ieri a Reggio Emilia, ha fatto 4 punti nelle ultime 5. Attenzione, perché quei treni lì, non so Pier cosa pensi tu, passano poche volte in una stagione maledetta come quella del Milan. Però onestamente il Milan, il Milan di Ibra aveva fatto grandi risultati, ma non è che avesse, forse a Cagliari, ecco, a Cagliari mi era veramente piaciuto, aveva dominato la partita, ma poi altre volte, penso al match in casa contro l'Udinese, anche alla trasferta di Brescia, anche in Coppa Italia contro il Torino l'altro giorno, insomma il Milan ha vinto delle partite appunto di voglia, di garra, di grinta, ma senza brillare, quindi ci sta una battuta d'arresto, un passaggio a vuoto, anzi oggi però in realtà almeno finché si era 11 contro 11 aveva dato la sensazione di poterla portare a casa, quindi però sono d'accordo, cioè è ovvio che se avesse vinto oggi avrebbe accorciato moltissimo, ma c'è ancora spazio, perché è chiaro che se Roma e Atalanta vanno a questo ritmo allora si riapre tutto, allora sono tutte in corsa per la quarta posizione. Se Roma e Atalanta riprendono il ritmo del giorno d'andata, allora a quel punto può essere una sfida a due. Sì, il discorso si chiude. Ci ricorda un amico, giustamente, Igli da Forlì, che subito dopo Inter Milan c'è Lazio-Inter la settimana successiva, quindi stiamo arrivando davvero nel momento decisivo del campionato per tante vicende. Poi un altro che scrive 349-238-6666: è possibile che i calciatori del Milan manchino di così tanta autostima che senza Ibrahimovic in campo si deprimano? E secondo me è possibile, sì, lo racconta la prima metà di questa stagione più che oggi. Non so, Dario, Monica, cosa ne pensate? Monica, da milanologa. Ma mi sembra che ci siano alcuni giocatori come Theo Hernandez che siano comunque sfrontati a prescindere dalla presenza o meno di Ibra. Gli altri forse sono un po' più da prendere per mano, sembrano un po' più i fratellini senza il fratello maggiore, ecco, un po' più spaesati. Anche se oggi Theo Hernandez sul gol preso rivedibile, su uno dei due gol presi dal Milan. Sì, sì, io però mi riferivo alla voglia, alla personalità. Comunque resta il fatto che il problema grande è che dopo la grande svendita di gennaio, oggi il Milan non aveva cambi all'altezza in panchina, perché con tutto rispetto per Daniel Maldini, ma poi alla fine è entrato in campo l'esterno belga del nome impronunciabile, che quindi non pronuncio. Salemakers. Che in circostanza normali non sarebbe stato inserito dopo così pochi allenamenti con la nuova squadra, e Paquetá, che è l'elemento di maggior qualità, ma nell'ultimo mese era veramente un corpo estraneo alla squadra. Mi dai tanto un voto che a Paquetá si è trattata oggi? La cessione in quei minuti che ha giocato? 5. Ha perso tra l'altro un pallone sanguinoso a centrocampo, facile, esatto. E ha rischiato di ridare vita a un contropiede del Verona. Troppa leggerezza. Sì. Assolutamente. Allora, ringrazio Monica Colombo, grazie anche a te Dario Ricci. A voi, ciao. Grazie. Ciao Monica. Ciao. Chiudiamo il collegamento da San Siro in attesa delle parole di Stefano Pioli in diretta a Sky. 800 24 00 24, Fernando Cremona. Buonasera a te. Vai. Buonasera. Senta, io vorrei dire una cosa. Sono totalmente in accordo soldale col presidente commisso della Fiorentina. Io ho 65 anni, non 15. Ricordo che mio papà mi portava allo stadio sulle spalle, e già quella squadra con le strisce a righe bianco e nera erano gli anni 60. Mio papà diceva questa famosa frase: hanno rubato ancora negli anni 60. Allora io mi chiedo, ma è possibile che anche voi non abbiate un po' uno scatto d'orgoglio nel dire: signori, la famiglia Agnelli ha il potere, chi non ce l'ha viene logorato, come diceva un famoso signore che non c'è più. Però sai Fernando, finisci che ce ne sono anche altri in coda, siamo qua. Ho capito, io sono, ho 65, ripeto, sì, convinto che il calcio italiano è manovrato dalla famiglia Agnelli. Vabbè, ti tieni la tua convinzione, te l'abbiamo fatta dire, e io so che se tutte le volte che mi avessero chiesto uno scatto di dignità perché la squadra più forte era accusata di rubare l'avessimo detto, probabilmente saremmo anche andati un po' a casaccio. Poi alcune cose sono successe negli ultimi 15 anni di calcio italiano, non riapriamo, per cui per carità, ma mi pare, ed è il punto da cui almeno qui siamo partiti, che questa sia una stagione in cui un po' tutte le squadre di vertice vengono attribuiti dei favori anche abbastanza recenti. C'è chi ci sta scrivendo contestando ad esempio i rigori che vengono dati alla Lazio, che sono tanti, però insomma ci sono, vengono dati. Giornate come questa è insomma, si apre il libro dei luoghi comuni. Il più classico luogo comune del calcio italiano è quello che ha esposto l'ascoltatore, che sinceramente non è condivisibile come minimo, no? Quindi si tratta di due episodi, ma secondo me non è neanche questo il punto. Il punto sono le esternazioni di Commisso, che poi autorizzano l'apertura dei libri di qui sopra. E qui abbiamo detto, Commisso non ha reso un buon servizio, credo nemmeno a se stesso, che fa parte di quel sistema. Pier, se sei d'accordo, ripartiamo subito dopo la pausa con Giovanni da Pisa, Massimiliano dalla provincia di Modena. Ci stanno arrivando una tonnellata di telefonate. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Tutti convocati. va a recuperare energie, spero anche di recuperare i giocatori per averne più possibile disposizione per fare delle scelte anche giuste per queste prossime quattro partite. A proposito di questo, questo Pioli visibilmente deluso, ma non potrebbe essere diversamente per il mezzo passo falso del Milan a San Siro contro il Verona, ricordiamo 1-1. Sì, cioè, io ripeto quello che ho detto prima, quando dominava ad esempio il Milan, in quanti dicevano che il Milan aveva la forza politica delle televisioni dietro che condizionava. Nei 5 anni di dominio dell'Inter c'era chi accusava l'Inter di avere il favore degli arbitri, così come è capitato in altri passaggi storici alla Juventus, che è certamente un club molto competitivo, forte e anche potente, pesante, importante nel calcio italiano. Oggi stiamo parlando di un episodio del 2-0 in una stagione che onestamente mi sembra non indirizzata e non condizionata dagli arbitri. Carissimo Piero, abbiamo Alessandro Vocalelli. Ciao Alessandro. Vai, ciao. Buonasera a voi gli ascoltatori, ciao, ciao a tutti. Ciao, vuoi dirci qualcosa? Poi parliamo un po' della Lazio e della Roma. Vuoi dirci qualcosa sulla rissa che si è scatenata dopo Juventus-Fiorentina? No, io veramente sono un po' stanco di sentire ad ogni partita in cui c'è un episodio che può essere dubbio. Il primo rigore è nettissimo, secondo me ce n'era in precedenza un altro su Ronaldo, poi c'è un terzo rigore, diciamo il secondo che è stato accordato, che è discutibile, ma secondo me c'era anche quello, in cui si invoca i regali, il potere, la sudditanza. Cioè, francamente io penso che bisogna riconoscere che c'è una squadra, che è una squadra che vince 8 scudetti consecutivi, che è in testa in questo momento al campionato, che può permettersi di sostituire Higuain con Dybala, e allora bisogna riconoscere la forza di questa squadra. Poi c'è un episodio che può essere discutibile, ma dimmi tu o ditemi voi quale squadra non ha avuto magari un episodio discutibile al limite a favore. Solo che quando si applica a squadre così forti poi si urla subito. Direttore, sai benissimo che la Juventus è il grande alibi per tutti. Sì, appunto, ma io pensavo onestamente che dopo 8 scudetti di fila, dopo 2 finali di Champions, dopo non so quante Coppe Italia, dopo un dominio così è stato, ma ripeto, di una squadra che in questo momento è una squadra che lotta con il Manchester City, il Barcellona per la Champions League, fossero finiti questi discorsi. Nel senso, ripeto, ci può stare l'errore anche a favore della Juventus, e non è il caso di oggi. Ma io vorrei che mi piacerebbe, ma non è possibile, riunire tutti i presidenti e alzarsi le mani chi non ha avuto un episodio un po' dubbio a favore, e se in quel caso si avrebbe fatto piacere pensare che lui era quello che manovrava un potere occulto. Francamente io penso che sia un po' stupido. Allora, parliamo della Lazio a proposito di corsa a scudetto. Io voglio partire da una provocazione. Ce la siamo detti prima in redazione osservando il secondo tempo di Lazio-Spal. Nei panni di Inzaghi avreste tolto Ciro Immobile, doppietta del primo tempo, 25 gol nelle prime 21 partite giocate di questo campionato, viaggia spedito verso il record di gol anno 2016 di Higuain. È una provocazione perché un allenatore che pensa alle chance scudetto della sua squadra magari lo tiene dentro, uno che capisce che è difficile togliere uno che è in testa un record, scusate, lo toglie, uno che capisce che forse è in testa di battere un record individuale lo tiene dentro, e Inzaghi insomma si trova davanti a un bel bivio, no Pier? Sì, beh, la Lazio gioca anche mercoledì, però insomma sì, devo dirti che oggi è stata la più bella risposta che gli attaccanti della Lazio potessero dare alla suggestione Giroud che è arrivata durante la settimana, che la Lazio ha cercato di prendere. Ma insomma, mi sembra che se gli attaccanti della Lazio sono questi, e non è una sorpresa perché stanno facendo così bene, Immobile soprattutto, ma anche Caicedo, forse di Giroud al momento non ce ne sia particolarmente bisogno, anche perché la Lazio è uscita dalle coppe. Io continuo a dire quello che dico da settimane: la Lazio in questo momento è una squadra più in forma. C'è un'altra squadra, nemmeno la Juve, nemmeno l'Inter, che affronta delle avversarie dirette, non dimentichiamoci la Spal 2 settimane fa da vincere a Bergamo, che affronta delle avversarie, diciamo, di fascia medio-piccola con questo tipo di atteggiamento, che è lo stesso che si è visto contro la Samp, lo stesso che si è visto oggi, che si è visto contro il Torino nella prima parte della stagione, che si è visto contro il Genoa. La Lazio ha una forza propulsiva enorme. Poi se ci sarà il braccino, se io questo non lo so. È chiaro che rispetto alla Juve, ad esempio, è un po' meno profonda come rosa, però insomma, per me in questo momento è la più in forma delle tre e ne sono convinto anche dopo questa giornata. 12 no. vittorie, un pareggio nelle ultime 13 giornate. Partita di oggi e risposta di oggi particolarmente importante, perché la Lazio arrivava da quella sconfitta di Coppa Italia a Napoli, da un derby giocato non bene, quindi tutti alla finestra a domandarci, sì, ma io torno immobile cosa fai? Lo leverei subito, lo tieni, te l'ho detto dentro prima. Lo togli al primo, allora, del secondo tempo, al quinto secondo tempo, pronti via, intervento da dietro abbastanza carogna, abbastanza duro di un difensore della Spal, in quel momento lì fuori subito Immobile. Alessandro, santa, si giocano tre partite questa settimana. No, io francamente penso che già è successo una volta, credo che fosse a Bologna, che Immobile aveva fatto due gol e Inzaghi l'ha sostituito e lui si è dispiaciuto anche in altre situazioni. Questi sono divoratori di emozioni, per cui io penso che più gli dai la possibilità di prendersi tutto e loro continueranno a prendersi tutto, per cui Immobile no, io penso che abbia fatto bene a sostituire Acerbi invece che insieme ad Immobile. Il vero giocatore insostituibile della Lazio in questo momento è per me il difensore più forte d'Italia in questo momento, per carità, non voglio dire in assoluto perché ce ne sono altri di straordinari, però in questo momento è un giocatore che tiene tutto il reparto della Lazio e mi sembra veramente insieme a Immobile, al pari di Immobile, il giocatore insostituibile, anzi forse addirittura più di Immobile. Qualche partita senza Immobile la puoi giocare, secondo me senza Acerbi sarebbe impossibile, per cui fa bene a sostituire Acerbi. Lazio-Verona, Parma-Lazio, Lazio-Inter nelle prossime due settimane. Alessandro, questo è lo snodo cruciale. Io penso che dopo la partita con l'Inter si saprà tutto del campionato della Lazio nel senso definitivo, nel senso che noi tutti pensiamo che la Lazio è una concorrente, ma noi tutti in fondo pensiamo che poi magari la Lazio non ha i numeri per tenere fino alla fine, perché ti dividi, diciamo, tra quello che vedi e quello che capisci, che la Juventus è tanta di più, l'Inter è tanta di più. Però questa partita con l'Inter, questa settimana cruciale. Io non sono molto d'accordo, direttore, nel senso la Juventus è tanto di più ovviamente in termini di rosa, perché la rosa della Juve è nettamente superiore, molto più profonda. L'Inter secondo me non è tanto di più, e la Lazio, cioè, di queste tre è quella che in questo momento in relazione al potenziale sta facendo meglio, quindi io credo veramente che poi, ripeto, magari la benzina di questi tre mesi pazzeschi a un certo punto sarà un po' di meno. È chiaro che ci sono dei giocatori meno facilmente sostituibili rispetto soprattutto alla Juve, ma per me oggi la Lazio non ha niente di meno. Il fatto che non siamo abituati, nessuno immaginava che la Lazio potesse essere lì, e quindi fa un po' effetto vedere che sta lì, ma in realtà se vedi le risposte che dà di settimana in settimana, le partite facili le vince di netto, le partite difficili le vince faticando, ma ha bucato il derby, oggettivamente giocato male. Ha bucato il derby, ha pareggiato. Ha giocato la peggiore partita della stagione, ha pareggiato contro una buona Roma. Io concordo con te, in questo momento secondo me Lazio è la più brava, quella che sta facendo meglio. E per me, ripeto, l'Inter continua a sembrarmi più forte, ma non dico, penso agli attaccanti, perché la Lazio ce n'ha anche lei di importanti, o al centrocampo, nonostante l'arrivo di Eriksen, ma mi rifaccio al discorso di Acerbi. Io penso che l'Inter è una squadra che tiene come riserva quarto difensore Godin, dopo avere De Vrij, Skriniar e Bassoni, che per me è uno splendido giocatore. La Lazio mi sembra appesa, ripeto, a un leader della difesa insostituibile. È un po' più corta. Deve insomma fare tutti gli scongiuri. I 4-5 giocatori chiave devono star bene, anche se onestamente delle partite senza giocatori chiave già l'ha vinte, perché a Brescia ha giocato senza Luis Alberto e Leiva e l'ha portata a casa comunque, quindi voglio dire, le soluzioni le trova, certo, nelle grandi partite, nelle grandi, grandissime partite, deve sperare di arrivare con questa condizione fisica e con tutti gli effetti. Che poi è quello che ha detto, se vi ricordate, qualche settimana fa Simone Inzaghi, quando gli ha detto cosa manca per lo scudetto. Poco manca, ha detto, che non finisca come l'anno scorso, che poi ci troviamo nell'ultima parte della stagione a fare i conti con un sacco di infortuni. Grazie Alessandro Vocalelli. Ciao, direttore. Un abbraccio a tutti. Ciao direttore. Ciao, ciao. 800 24 00 24, Giovanni Pisa. Vai Giovanni. Buonasera e complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo dire, mi scusi, poche parole. Io ho guardato la partita stamani e mi meraviglio alla fine di addetta ai lavori come Balzaretti e Guidolì, che subito a caldo non era rigore. E anche il commentatore, non dovrebbe essere di parte. Questo lo dico, guarda, ti faccio rispondere dal commentatore, Giovanni, se vuoi. Ma il commentatore. Vai, Pier. No, e non ho capito, quindi che succede? Cosa ha detto Pier di parte? Giovanni? No, innanzitutto, più di 40 anni nel calcio giovanile, quindi non è che voglio criticare più di tanto. Però nessuno dice che Betancourt, quando è entrato in area, era un'azione dal gol. Cosa c'entra difensore questo, Giovanni, della Fiorentina gli è andato addosso, ma guardiamo bene, dal davanti. Ora, se si può dire, non voglio dire che la Juventus è stata aiutata. Io, Giovanni, sono andiamo un attimo alla sintesi. Secondo te era rigore o no? Cioè, non ho capito. Secondo me non era rigore, perché era un'azione da go e andava in porta. Il terzino della Fiorentina si è andato addosso, l'ha ostacolato. Quindi, vabbè, dice dove doveva andare, non lo doveva far andare, però è rigore. Allora era rigore, secondo te? Era rigore. Va bene, allora Giovanni, registriamo. Hai lo stesso pensiero di Alessandro Vocalelli. Io ho il pensiero diverso, però Pier, vai. Sì. Ci terrei a dire una cosa. Secondo me, cioè, ormai si è creato, io lo vedo anche nei commenti, da una parte e dall'altra. Cioè, non è che il telecronista, che oltretutto valuta in tempo reale situazioni sulle quali molto spesso si discute dopo giorni, deve avere subito la cosa di dire. Siamo arrivati al problema del linguaggio. Cioè, se tu dici rigore, credimi, c'è gente che ti dice però l'hai detto troppo poco. Capito? Sì, cioè, ormai si fa l'analisi del linguaggio e gli altri ti dicono l'esatto contrario. Cioè, non ti dico cosa sta arrivando qua di messaggi, solo perché noi abbiamo ospitato l'opinione di un collega stimatissimo che ha detto che secondo lui era rigore. E però noi abbiamo detto che secondo noi non era rigore, quindi stiamo prendendo insulti da tutte e due le fazioni, se ti interessa, Pier. Parco indicio. Benvenuti. Il della qualsiasi partita con situazioni arbitrali. E l'aspetto più triste è che nessuno parla di calcio, questo secondo me è l'aspetto più triste. E poi probabilmente c'è l'abitudine del telecronista tifoso, che per cui ognuno vuole che il telecronista dica esattamente quello che pensa il tifoso in quel momento, senza se, senza ma, con gli stessi toni che i tifosi usano. Vergogna, inaccettabile, un errore, incredibile. Io rimango convinto di quello che ho detto, ma rivendico anche il diritto che delle situazioni sulle quali si discute dopo giorni possano essere viste. Ad esempio, sul primo rigore, che è nettissimo, che c'è, quello che penso è che l'arbitro abbia visto, come ho visto io nel live, abbia avuto la sensazione che l'intervento fosse con l'altro braccio, il braccio quello che era lungo il corpo. In effetti poi invece col VAR si vede che l'intervento è con la mano sinistra, e quindi, vista la situazione, vista la dinamica, zona grigia, perché non è sopra il corpo e non è nemmeno attaccato al corpo, si valuta la dinamica ed è giusto dare rigore. Ma questo è un regolamento difficile, partita che va in tempo reale, uno ha il diritto di dire le cose. Sono tutti telecronisti affermati che certamente nella tua posizione, con sulle tue cuffie e il tuo microfono, sarebbero stati capaci di una lettura straordinariamente perfetta. Dobbiamo fare il traffico proprio. Sì, dai, vai. Secondo me ormai c'è l'abitudine ai giornalisti tifosi, ai telecronisti tifosi, per cui se uno dice una cosa ma non sfumata, se uno valuta gli episodi, da un momento all'altro viene insulti da una parte e dall'altra. Va benissimo così. È un problema della nostra professione. Però dico, non si parla di pallone, non si parla più di pallone, e si valuta tutto così, sull'adrenalina del momento, da una parte o dall'altra. Ciao Pier, ti saluto. Abbiamo il tennis. Abbiamo il tennis adesso. Andiamo. Vuoi stare? Andiamo a Melbourne insieme, se vuoi. Vi ascolto. Ti ascolti. Ciao. Dai. Ciao Pier. Traffico, torniamo subito. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Tra qualche istante andiamo a Melbourne per raccontare la vittoria di Djokovic nella finale degli Australian Open in 5-7, 3 ore e 59 minuti, 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 contro l'austriaco Thiem. partita straordinaria, ma il ricambio generazionale, carissimo sì. Carlo, per un'altra volta possiamo rinviarlo a tempi più maturi. È bravo team comunque, ha venduto carissima la pelle in un torneo che è tradizionalmente, negli ultimi anni tradizionalmente, casa di Djokovic, che va in finale quasi di default. Torneo dove abbiamo visto gli italiani uscire un po' troppo presto, salvo Fognini, in cui abbiamo visto Federer essere sul punto di crollare in diverse occasioni e poi arrendersi soltanto Federer a Djokovic. Federer ha fatto un miracolo essere arrivato in semifinale. Sì. Vincenzo Martucci, ciao Vincenzo. Buongiorno a voi. Poi alla fine vince sempre Djokovic, e credo che si debba anche dire che forse in questo momento è il numero uno assoluto, al di là della burocrazia e dei conteggi dei punti o meno della classifica. Ah, io ho la sensazione che quando lui è al massimo è più forte di quando è al massimo Federer e al massimo Nadal, nel senso che diventa ingiocabile, soprattutto su una superficie come questa, dove appunto ha vinto 8 volte, è un cemento che aiuta i suoi colpi, il suo gioco, la palla torna tante volte indietro, è più difficile chiudere il punto, lui diventa veramente un muro, e quindi niente, non c'è tanta discussione. Io direi che piuttosto ci sarebbe una discussione da fare sui 5-7, che sono diventate un'ulteriore evidente barriera fra i primi e i secondi, compreso questo team che ha fatto dei grossissimi passi avanti sul cemento, nella condizione fisica, nel miglioramento del dritto, ma che dopo 3 set, quando il gioco si fa duro, quando la partita comincia davvero, non ce la fa. Ma il tennis quello vero è su 3 o su 5? Il tennis vero, quello vero secondo me è su 5, ed è un vero peccato che in Coppa Davis adesso si giochi su 3, quindi praticamente i 5-7 si giocano soltanto negli slam, e guarda caso abbiamo sempre gli stessi che vanno avanti, perché è proprio un altro gioco. Oggi si è visto benissimo, a un certo punto al 3° set Djokovic ha un pochino tirato il freno a mano, ha giocato così più semplice, più libero, ha aspettato che l'altro si fermasse un attimo, e gli ha cambiato un po' il gioco, ha cambiato qualcosina, ha fatto un paio di volte servizio volé, ha giocato in modo diverso, è uscito da quella morsa da fondo campo dove Tim stava dominando e ha cambiato le carte in tavolo, è passato un attimo. Però sai cos'è, Vincenzo? La sensazione è che questo magari non ti ruba il cuore come Federer, no? Però sia veramente un atleta mostruoso, forse il più grande atleta puro della storia del gioco. Sì, ma poi è l'unico che riesce a scivolare sul cemento, cioè lui riesce a giocare sul cemento come Nadal fa sulla terra rossa, che è un'altra cosa straordinaria e difficilissima da vedere. Io l'ho sempre chiamato il campione di gomma, perché in realtà non rimbalza, lui proprio è elastico, per cui vedi che si allunga tutto e sembra proprio che scivoli. In realtà, se guardi bene i suoi movimenti, non è proprio un vero scivolamento, è quasi un rimbalzare di qua e di là, copre tutto il campo, e quindi il povero Tim a un certo punto non sapeva più che fare. Onore a Tim, grandissimi progressi. Gli altri, dicevate appunto del next gen o comunque quelli di 22-23 anni, sono stati tutti bocciati, ma se andiamo a vedere come abbiamo ancora questo discorso dei 5-7, questo discorso della fatica che non è tanto fisica quanto mentale, rimanere concentrati, star lì e trovare un satanasso come Djokovic, che nel momento in cui tu hai dato tutto, come oggi ha dato Tim, lui invece è ancora che comincia la sua partita, perché anche la furbata di andare negli spogliatoi non è una cosa da poco, perché lui in realtà in quel momento era stanco, però fermi un attimo l'avversario, recuperi un attimo, prendi la pilloletta, mangi la barretta rigeneratrice e la partita ricomincia. Sì, la pilloletta in senso buono, chiariamo prima sì, che, sì. Prima che qualcuno... Ecco. La pilloletta per il mal di testa. Dai. Esatto, la pilloletta per il mal di testa, in ogni caso spezzi il ritmo. Io trovo che questi siano Australian Open in cui la prestazione fisica di carattere in assoluto migliore sia stata quella di Federer, che camminava rispetto agli altri ed è riuscito comunque attraverso mille peripezie ad arrivare fino a una sfida impossibile, quella con Djokovic. Perché lui è un atleta nato, quindi fa meno fatica degli altri, vede prima la palla e c'ha questo straordinario anticipo, questa varietà al servizio, adesso sempre più al servizio, che lo salva nelle situazioni più impensabili. Poi c'è questa esperienza, lui praticamente a un certo punto contro Sandgren è stato mostruoso. Io lo farei vedere veramente a tutti i ragazzi che poi sentono la pressione, gli ha succhiato l'anima, sì, gli ha fatto fare tutte le cose che quell'altro poverino nella sua pochezza e comunque nella sua grandezza, perché è un giocatore che riesce a ottenere grandi cose, e onore anche a Fognini che ci ha perso sì, ma ci ha lottato e ha rischiato di vincerci, e se non fosse stato per quel paio di momenti di lapsus mentali che purtroppo si è concesso, l'avrebbe anche battuto, e chissà cosa sarebbe stato il torneo di Fognini. Però anche Sandgren è un grandissimo giocatore, cioè un giocatore solido, quei giocatori che poi devi battere, quindi Federer è un fenomeno, Federer è oltre, è uno di quelli che rimpiangeremo per sempre, sì, perché rende facili le cose difficili come solo i campioni sanno. Grazie Vincenzo. Ciao Vincenzo. Arrivederci a voi. Ciao, ciao, grazie Vincenzo. Martucci, Massimiliano, provincia di Modena, 800 24 00 24. Massimiliano. Ciao ragazzi, ben trovati. Vai. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Non vorrei essere noioso, ma sempre sullo stesso argomento, però da me pieno sostegno al presidente commisso, perché la Juve non ha bisogno di questi aiuti, anzi io proprio tagliamo la testa al toro. Il VAR a favore della Juve basta. Il VAR a favore della Juve basta, hai detto? No, basta, la Juve tocca senza il VAR, lei a favore non può avere il VAR. Potremmo fare, tu dici, una modifica al protocollo. Sì, penso che piena soddisfazione certi tifosi la troverebbero solo così. Però Massimiliano, pensa che senza il VAR il rigore gliel'avevano dato uguale. Come la mettiamo? Ma guarda, nel primo rigore, a dire la verità, questa... l'arbitro non l'aveva neanche ma il primo, ragazzi, c'era. Di che stiamo, poi aspettiamo 18:45 Marelli, ma insomma io mi sento di anticipare il verdetto. L'ha detto anche Pierluigi Pardo, l'hanno detto un po' tutti. Il primo c'era, ma l'ha detto anche commisso che primo c'era. Il tema è il secondo. Però insomma è interessante la tua proposta. Si dovrebbe fare, credo che tu sia ironico, insomma, una modifica regolamentare. E far sì che il VAR non possa mai intervenire a favore della Juventus, ma al limite intervenire contro. Quindi vale solo la discrezionalità dell'arbitro. Ricordo che Pasqua, l'arbitro oggi di Juventus-Fiorentina, è l'arbitro che ha dato il primo calcio di rigore della storia del VAR in Italia in Juventus-Cagliari contro la Juventus. Posso sbagliarmi, ma chiederemo conferma a Luca Marelli. Abbiamo il GR, ci fermiamo, abbiamo ancora tantissime cose di cui parlare, quindi 800 24 00 24. Cercheremo anche di parlare della partita della Juventus, perché in realtà qualche spunto lo ha dato e non necessariamente tutti positivi. Cercheremo di analizzarlo. Abbiamo alle 18:35 un bel approfondimento sull'Udinese con Magda Pozzo, che è una delle figlie del patron Pozzo ed è la persona che sta prendendo in mano l'Udinese. Ci facciamo raccontare un po' di cose a due ore da Udinese Inter. Ci troviamo fra qualche minuto. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Samu Expo, metalmeccanica, plastica e subfornitura. 6-7-8 febbraio, Fiera di Pordenone. Attenzione! Con Uliveto vinci migliaia di buoni spesa da 50 euro. Uliveto è una fonte di calcio altamente assimilabile. Acquista Uliveto, troverai una cartolina con tante preziose informazioni. Cancella i quattro amici della salute delle ossa e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 50 euro. La spesa te la offre Uliveto. Acquisto noleggio, acquisto noleggio, acquisto noleggio, acquisto noleggio, acquisto noleggio, acquisto noleggio. Perché scegliere quando puoi averli tutti e due? Con Noleggio Chiaro puoi scegliere oggi l'auto di Fiat Chrysler Automobiles che desideri ed acquistarla dopo 3 anni a un prezzo garantito. Ad esempio Alfa Romeo Stelvio è tuo da 399 euro al mese con RCA, furto incendio, copertura danni e manutenzione inclusi nel canone. Offerta valida fino al 29 febbraio e soggetta ad approvazione Lisis. Durata del noleggio 36 mesi, anticipo 11.400 euro. Info su noleggiochiarofca.it. Parte Cristiano Ronaldo col destro, 1-0 Juve, aveva intuito il lato il portiere della Fiorentina, ma Cristiano Ronaldo l'ha comunque spiazzato, 1-0 Juve. Cristiano continua a segnare a ripetizione e lui, per lui è importante questo, perché lo tiene in grande condizione mentale, in questo momento sta bene anche fisicamente, sta facendo tutta la differenza che noi ci aspettiamo da lui, anche di più. Really wanna make you mine. finisce qui con la vittoria della Juve per 3-0, due volte sul calcio di rigore Cristiano Ronaldo, poi la soddisfazione personale per De Ligt. Siamo contenti perché stiamo ottenendo risultati. Oggi abbiamo vinto 3-0 a squadra che mi è piaciuto molto, perciò piano piano stiamo raggiungendo il massimo della nostra condizione. Intanto è iniziata Lecce Torino, quinto minuto, primo tempo 0-0 risultato. Seguiremo, ringrazio Emilio da Cava dei Tirreni e anche il nostro Luca Marelli che mi correggono. Il primo rigore della storia del VAR in Italia era in quel Juventus-Cagliari che ho citato, rigore a favore del Cagliari, poi parato da Buffon. Non era però Pasqua, ma era Maresca con Alvar Valeri, e quindi facciamo ammenda dell'errore. Gianni Balzarini, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Proviamo a uscire dalla questione arbitrale che ha tenuto banco per tutta la prima ora, ma se volete siamo qui 800 24 00 24, anche perché ripeto 18:45 arriva Varanatomi con Luca Marelli e abbiamo 8 episodi da analizzare di questa partita. Però vorrei capire da Gianni Balzarini che voto dare alla Juventus oggi. Secondo me 6,5 al massimo. Sì, stavo per dire esattamente lo stesso voto. Perché la prima mezz'ora ho visto una squadra con ste gran possesso palla ma senza una via d'uscita verso la porta di Dragoschi. Ho visto Szczęsny compiere 3 parate. Avevo fissato il resoconto della partita al 30esimo, me lo sono andato a vedere, al 30esimo diceva 80% possesso palla Juve, 254 passaggi Juve, 58 passaggi Fiorentina, però in questi 58 passaggi c'erano state 3 parate di Szczęsny e nessuna parata di Dragoschi. Determinanti, tra l'altro. Esatto, e nessuna parata di Dragoschi, che va ovviamente a legittimare il discorso secondo cui non è che con possesso palla automaticamente poi tu puoi vincere una partita. Le azioni più pericolose che hanno portato tra l'altro la prima al rigore, il primo rigore di Ronaldo, sono arrivate con tiri da fuori. Quindi attraverso la decisione singola di un giocatore di provare a tirare in porta. Primo tentativo Bentancur ha prodotto una parata di Dragoschi, il secondo tentativo quello di Pjanic è andato sul braccio del difensore della Fiorentina. E quindi alla fine 69% possesso palla della Juve. La domanda è: a che punto siamo nel piano che porta al core business della Juve, cioè la ripresa delle coppe? Devo usare un'altra percentuale? Sì. Se devo usare un'altra percentuale, secondo me siamo al 70-75%. Però mi sembra che siamo work in progress, perché ad esempio, sì, lasciando stare il discorso del tridente puro, quello che, sì, è stato ribattezzato di Gualdo, Ramsey oggi panchina, è rientrato Douglas Costa ma sembrava più un, sì, 4-3-3 senza tridente, giocando, sì, con Douglas Costa esterno, cioè, sì, ho l'impressione che comunque sia Sarri sia ancora nella fase di sperimentazione. Ma assolutamente sì, e io credo che questa sperimentazione che comunque sta portando la Juventus ad essere prima in classifica, ad aver vinto il girone di Champions col punteggio record di 18 punti di 16 punti su 18 e ad essere in semifinale di Coppa Italia, credo che questa sperimentazione continuerà praticamente fino alla fine di questa stagione. D'altra poi parte, le sperimentazioni te le compri, la possibilità di sperimentare te la compri con i risultati, quindi sta pagando il prezzo e può sperimentare finché vuole. Beh, però credo che prima o poi dovrà avere in testa qual è la Juve per le 5 partite che contano veramente. Ma sì, ma forse ce l'ha in testa, il problema è che ci sono poi le varianti, cioè a lui piace tantissimo Douglas Costa, tanto per citare un nome, no? Doveva detto anche il 20 di giugno, il giorno della sua presentazione, no? A Douglas Costa esterno o trequartista? Perché esterno. Poi prima dell'infortunio aveva provato anche a impostarlo trequartista, poi Douglas Costa si fa male, inizia l'esperimento con il trequartista Ramsey, poi ogni tanto c'è l'esperimento con il tridente puro. No, ma secondo me lui lo vede come ha giocato oggi. Il problema è che lui fa molto affidamento su questo giocatore, sul quale però non si può fare molto affidamento dal punto di vista fisico. Quindi magari inizi un progetto in un certo modo, sei costretto ad interromperlo o comunque non riesci a farlo crescere come vorresti, ecco. Però sai, sono tanti giocatori di grande tecnica individuale e di grande intelligenza calcistica. E se come si gioca in 11, poi devi fare delle scelte, e poi c'è quella settimana che vedi meglio uno e meno bene l'altro. No, magari le fa anche in funzione dell'avversario. Il problema è che mi sembra anche, che poi Gianni anche. Sarri ha detto anche lasciar fuori uno come Dybala in questo momento e in questa stagione è qualcosa che rasenta il criminale, che fa andare a letto bestemmiando. Ma è chiaro, poi ogni volta che ne sostituisci uno cogli immediatamente, no? Anche oggi Higuaín, insomma, qualcosa gliela detta passandogli di fianco al momento di uscire. Ma se sdogani questo rapporto dialettico, è ovvio che sia così, no? Cioè è chiaro che se vale per uno vale per l'altro, poi vale per l'altro, è un rapporto dialettico, si scelte questa via, e quindi mi sembra quasi fisiologico. Riccardo su WhatsApp: secondo me la Juve è in difficoltà nel creare occasioni, il gioco di Sarri arriva fino alla tre quarti, poi c'è un po' di fatica e poi c'è un evidente problema in difesa. Oggi la Juve non ha preso gol e non è successo spesso in questa stagione. Però è anche vero, giustamente Gianni Balzarini lo ricordava, nel primo tempo Szczęsny almeno in un paio di occasioni è stato provvidenziale. Sì, assolutamente. No, ma è il discorso che si faceva prima, c'ha ragione l'ascoltatore. Il fatto è che poi questo tipo di gioco o lo fai con una certa velocità o se no permetti alle difese di riposizionarsi, di chiudersi. Infatti, se voi ci fate caso, insomma, la Juve è un continuo farsi passare il pallone dalla destra verso il centro, verso la sinistra, poi dalla sinistra verso il centro, verso la destra, cioè cerca chiaramente di trovare l'imbucata. È chiaro che se poi riesce a giocarla in velocità, vedasi per esempio il gol strepitoso confezionato contro l'Udinese in Coppa Italia, se riesce a giocarlo in questo modo mette in difficoltà una difesa avversaria, ma se non riesci a velocizzare è evidente che poi diventa tutto molto più difficile, perché poi si provoca tanta, si forma tanta densità a livello difensivo a ridosso dell'area, a ridosso di quelli che possono essere gli sbocchi per tentare l'imbucata. Ecco perché poi dopo, a differenza di altre volte, questa volta la Juve ha provato anche la giocata individuale da lontano, probabilmente perché si è resa conto che c'erano poche possibilità di arrivare in porta col pallone. Intanto è in vantaggio il Lecce, undicesimo minuto del primo tempo, ha segnato sugli sviluppi di un calcio d'angolo De Jola, 1-0, bel gol, perché questo evidentemente è stato costruito con uno schema. Il Lecce ha occupato sull'angolo l'area di rigore lasciando al limite De Jola, che è stato servito credo da Saponara, e poi di prima intenzione di destro ha messo la palla sotto la traversa, abbastanza distratta la difesa del Toro, che non attraversa un grande strano momento. Ha preso 11 gol nelle ultime due partite giocate tra Atalanta e Milan ai tempi supplementari. Toro che comunque è sotto 1-0 a Lecce contro il Lecce. Grazie a Gianni Balzarini. Ciao Gianni. A voi, ciao ragazzi. Grazie a Gianni Balzarini. Andremo avanti a raccontarvi Lecce Torino, così come andremo avanti a parlare di che cosa ci attende nelle prossime ore del campionato di Serie A. Ricordiamo ore 20:45 Udinese Inter. Adesso il traffico, torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24, 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, sempre 1-0 Lecce Torino, 14esimo minuto, 800 24 00 24. Giuseppe da Padova. Giuseppe. Sì, salve, buonasera. Vai. Buonasera, stiamo tornando dallo stadio, siamo qui in macchina e niente, volevo fare un'osservazione in merito alla partita di Juventus-Fiorentina. Vai. Mi sembra si stia un po' esagerando un po' troppo, cioè, mi spiego meglio, eravamo allo stadio, il primo rigore va bene, c'era, è andato al VAR, ha valutato, il secondo per me era dubbio, è stato richiamato al VAR, è stato lì un minuto, credo, ha valutato con il VAR. Cioè, non capisco tutto sto odio per un episodio dubbio valutato a favore della Juve, quando 15 giorni fa c'era su Lautaro, con Lautaro c'era un fallo molto più clamoroso e non è che ci sia parlato adesso, con questo odio, con questa enfasi. Giuseppe, della questione Lautaro-Atalanta se ne è parlato per una settimana con toni anche accesi. Adesso non diciamo una roba che non esiste, noi stessi qui ne abbiamo parlato a sfinimento. chiaro, anche della presunta spinta che non esisteva ai danni di Brozovic e di tutto il resto che è stato ricostruito, sul fatto che si stia facendo una guerra di religione su un episodio, secondo me non era rigore, ma fondamentalmente un episodio diciamo abbastanza grigio, io sono sinceramente d'accordo con te, però evitiamo poi di cadere nell'errore contrario, Giuseppe. Un altro Giuseppe Torino, vai. Sì, ciao, buonasera a tutti. Vai. Allora, innanzitutto trovo l'intervento di Commisso un intervento scomposto, sbroccato, contro la Juve, che non fa bene alla Juve e che non fa bene al calcio italiano. Ha parlato di uno spot, una porcheria a livello internazionale, è inaccettabile. E l'altro aspetto che secondo me è disarmante è il fallimento del VAR. Non perché il VAR non aiuti gli arbitri, anzi, ma perché il VAR doveva servire ad azzerare le polemiche. E invece tutti, anche gli addetti ai lavori, anche per mi dispiace dirlo, prima c'era Pierluigi Pardo, mettono in discussione le scelte arbitrali anche del VAR. Quindi quello che deve essere un meccanismo per togliere ogni polemica e dire gli arbitri hanno deciso così perché l'hanno rivisto. Perdonami Giuseppe, cioè, allora, parlare e discutere di una decisione arbitrale anche presa al VAR io credo si possa fare. E sia anzi fare cronaca e fare commento e fare anche critica quando c'è da fare critica, e questo è un tema. Il tema secondo me oggi, e ne stiamo discutendo da un'ora e venti, va oltre però quel singolo episodio su cui secondo me 7 su 10 siamo abbastanza d'accordo, e cioè che non fosse alla fine calcio di rigore. Il tema è dire quello che ha detto Commisso, e cioè che in Italia ci sono porcherie, ci sono favoritismi a una squadra che è fortissima, e c'è un sistema di cui l'Italia deve vergognarsi all'estero per chi vede le partite. Cioè questo ha detto Commisso. Secondo me è andato un po' lungo, questa è la mia opinione, stiamo esprimendo, però ospitiamo anche la vostra, non c'è nessun problema. No, ma il fatto è che, insomma, come detto prima, sta imparando alla svelta, è andato certamente lungo ed è diventato istantaneamente il paladino dell'antijuventismo di tutto il mondo, no? Santificato da chi è contro la Juve. Matteo Bergamo, Matteo. Sì, buonasera. Vai. Io volevo fare una domanda secca ai presenti in studio, ma se il calcio fosse una favola di Fedro, quanto in antitesi sarebbero i due archetipi Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo? Uno così attento all'estetica, così dedito alla forma, e uno come Maurizio che comunque da interista, io lo dico, quando vesti certi colori dell'Assio me lo crea, ma così fiabesco, così concreto, così no al calcio moderno. A te sembra no al calcio moderno Sarri? Io non so, a me non sembra, anzi mi sembra che anche in maniera abbastanza intelligente si sia adeguato in fretta. Da che punto di vista? Cioè, fa un calcio molto moderno Sarri, lo ha fatto anche al Chelsea, una certa filosofia dal punto di vista della comunicazione. Diciamo che non metterei in contrapposizione Sarri e Cristiano Ronaldo quanto Sarri al mondo juventino. Lì è chiaramente una non contrapposizione, ma è qualcosa di profondamente diverso anche rispetto al linguaggio che normalmente alla Juventus si è sempre usato. Poi dal punto di vista comunicativo io credo in alcune cose Sarri dovrebbe certamente migliorare. Lo dico anche alcune immagini che sono girate ieri della sua conferenza stampa, però insomma dal punto di vista tattico si possono discutere alcune cose, non il fatto che lui sia arrivato con l'etichetta di talebano, il sarrismo, e dal minuto numero uno abbia lavorato per scollarsi quell'etichetta e per cercare di adattare il suo calcio a una rosa che evidentemente non è la stessa del Napoli e non è la stessa del Chelsea. Oh Carlo, ti faccio sentire a proposito di corsa scudetto mentre ha raddoppiato il Lecce, 19esimo minuto 2-0, poi vi diamo tra pochi istanti il nome del marcatore. Ti faccio sentire Conte, che questa sera fa quasi certamente debuttare Eriksen e che è il secondo chiamato a rispondere alla Juventus dopo Inzaghi con la sua Lazio che ha vinto. Appunto, sono contento quando la gente ci ringrazia di quello che stiamo facendo, significa che comunque stai lasciando una traccia. La gente sta apprezzando il sacrificio, il lavoro, la passione e la dedizione che tutti quanti noi ci stiamo mettendo per cercare di riportare l'Inter dove merita. Per questo sicuramente sono molto contento. Poi ripeto, guardiamo a noi stessi, guardiamo al nostro percorso di crescita senza invidia e senza fare dei paragoni. Pensiamo a noi, perché l'unico modo per crescere è lavorare e concentrarci su noi stessi, sapendo che c'è un percorso da fare. Allora, questo Conte, intanto il raddoppio del Lecce è stato firmato da Barak. 19esimo minuto, 2-0 per il Lecce sul Torino. Direi notte fonda per il Toro di Mazzarri. 19 minuti, due gol, anche qui difesa rivedibile. Dormita della difesa. Piuttosto sì. Goffa. Sì, sì, difesa del Toro decisamente rivedibile. Oh, questa sera io credo Udinese Inter debba raccontarci tante cose. Intanto l'Inter in emergenza, c'è anche il problema portiere perché non gioca Handanovic che ha preso un colpo alla mano, è in dubbio anche in proiezione derby settimana prossima. E l'Inter ha un secondo portiere che ha fatto l'ultima partita nel 2016. Si tratta di Padelli, il terzo questa sera è squalificato, porta un ragazzo, il figlio di Stankovic, in panchina. Insomma, è una situazione un po' da monitorare, così come da monitorare la solita ormai emergenza centrocampo e la squalifica di Lautaro Martinez. Io credo che questa sera Conte farà partire Esposito e non Sanchez, dopo aver visto le condizioni di Sanchez. Sì, l'unica cosa è chiaro, emergenza, l'Inter è stata molto spesso in emergenza e spesso se l'è cavata bene. L'unico augurio che posso fare a Conte, agli interisti eccetera, è che tutto questo non diventi un grande alibi, perché in quel sarebbe una... Fin qui non lo è stato, no, però. Ma infatti che non lo diventi, perché ogni conferenza stampa Conte parla di quel percorso, è la parola più gettonata del contese in questo momento. Ecco, se tutto questo diventasse un alibi o una lamentela, come qualche volta è capitato in passato, credo sarebbe una, così, una fermata su quel percorso che a Conte sta tanto a cuore. C'è da dire che dopo aver pareggiato 5 partite nelle ultime 7 giornate, con in vista, calendario alla mano, il derby, poi la trasferta a Roma con la Lazio e poi 2 settimane dopo c'è la trasferta a Torino con la Juventus, questa sera l'Inter gioca per un solo risultato. Non c'è dubbio, ma è giusto che sia così, è giusto che abbia anche questo tipo di pressione addosso, perché l'Inter vuole correre con la Juventus per lo scudetto. Secondo me può farlo fino in fondo. È chiaro che deve mettersi alle spalle quel periodo che non è stato nero, ma quantomeno grigio, tornando a vincere, perché il passo non lo puoi perdere quando se corri contro la Juve. Sì, questa sera è uno sliding door per l'Inter e per tutta la stagione, almeno per quanto riguarda il campionato. Lo chiediamo anche a Ciccio Colonnese. Ciao Ciccio. Buonasera a voi. Questa sera partita con segno fisso per l'Inter, visto come sono andate le ultime e anche cosa arriva poi per il calendario. Beh, indubbiamente è una partita importante, una partita che insomma deve dare la sensazione che l'Inter dopo il mercato sia una squadra in salute, perché insomma adesso le altre squadre vanno forti, la Juve vince, la Lazio vince, quindi l'Inter deve cercare di tenere testa a queste squadre, quindi deve assolutamente vincere stasera. Ma secondo te Eriksen può avere l'impatto che ebbe Sneijder? O è una suggestione? No, può avere, insomma, in questo lui va a giocare in un ruolo che insomma può farlo, però penso che per lui è una novità, insomma, in questo 3-5-2, se dovessi giocare lì, o perché insomma da quello che si è capito Conte nel 3-4-1-2, insomma, vuole vederlo più avanti, insomma, la sensazione che insomma giocherà in quel ruolo lì. Non lo so se subito può essere decisivo in quel ruolo, perché quel ruolo è diverso da come ha sempre giocato lui fino a una settimana fa dove giocava al Tottenham, quindi insomma non è semplice, ha dei lavori molto diversi di corsa, di campo, da giocare, da correre, e lui è un giocatore di grande fantasia, quindi bisogna capire se si riesce ad adattare subito in questo ruolo oppure si guarda il tempo. Sì, poi c'è la... adesso stiamo cercando di verificare, ma insomma c'è la sorpresa, dovrebbe esserci Esposito dal primo con Sanchez in panchina. Vediamo. No, sarà importante anche per lui, perché insomma, Esposito è una partita da non sbagliare. No, Esposito, insomma, questo ragazzo che si è sempre fatto bene, è un giocatore che ha dimostrato di essere pronto per il calcio dei grandi, ha qualità, ha voglia, ha fame. Quando entra ha sempre fatto bene, insomma adesso se dovesse giocare dall'inizio sicuramente anche per lui insomma inizia a essere una partita di grande responsabilità, e quindi dovrà dimostrare insomma di essere pronto veramente a non far rimpiangere. Però insomma, c'è anche un bene che l'Inter si trovi a queste partite con un risultato solo a disposizione, perché attraverso questi esami, queste prove, attraverso queste prove che diventi grande, no? Ma certo, ma deve essere un bene, insomma, per vincere bisogna essere pronti a sempre, l'attenzione deve essere sempre alta in tutte le partite, per costruire le squadre vincenti deve essere questa, insomma, sempre sotto pressione, come quella a partire di stasera. L'Inter deve migliorare da questo punto di vista, la classifica dimostrato che fino ad oggi l'Inter ha fatto un ottimo campionato, quindi deve proseguire su questa strada, insomma. Mancano ancora 3 mesi e deve continuare a far bene come ha fatto fino ad oggi. Come si gioca in difesa quando alle spalle non hai il portiere titolare, ma un portiere che negli ultimi 3 anni praticamente non ha quasi mai giocato? È il caso dell'Inter, Handanovic quasi certamente fuori, gioca Padelli. Handanovic è un mostro, è un portiere assoluto. No, ma al di là del valore del portiere, che chiaramente è superiore a quello di Handanovic su Padelli, se cambia qualcosa, cosa cambia nella testa di chi ci gioca qualche metro davanti sulla linea difensiva? Certo, cambia sicuramente, insomma, la conoscenza con un calciatore che giochi da 3 anni sempre insieme o dall'inizio del campionato sempre insieme è sicuramente diversa. Però insomma ci vorrà ancora più attenzione per cercare di far sereno sicuramente Padelli, che sarà anche lui la prima partita ufficiale, quindi ci lascerà sicuramente un po' di tensione. Quindi penso che i 3 giocatori dell'Inter che giocheranno davanti a lui dovranno porre ancora più attenzione per questa partita. Grazie Ciccio. Ciao. Grazie a voi. Ciao, grazie a voi. Grazie, grazie a Ciccio Colonnese. Rodolfo Milano, 800 24 00 24. Vai Rodolfo. Sì, buongiorno. Volevo dire che re è nudo, cioè le cose che voi non potete nel vostro ruolo dire. Io seguo il calcio da 57 vai, anni. Vai che le dici tu, vai Rodolfo. Okay, vai, okay. Siamo qua. Il gol di Turone. Il gol di Turone. Di Giuliano. Il rigore di Giuliano. Orsato. Ah. Il gol di Montari. È sempre dalla stessa parte. Cioè, il problema non è la VAR. La Juve andava radiata con Calciopoli. Non è stata radiata, il problema ce lo ritroviamo. Beh, insomma, a me sembra, Rodolfo, che hai fatto un po' minestrone, però insomma, noi accettiamo le opinioni di tutti, anche quella sulla radiazione. A me sembra che la Juve su Calciopoli abbia pagato e non poco. Il problema per chi non tifa Juventus è che la Juventus su quelle ceneri poi è stata capace di ricostruire un ciclo come questo, approfittando anche del momento di disinvestimenti degli altri, perché oggettivamente c'è anche un momento storico in cui due altre grandi potenze, Berlusconi Milan e Moratti Inter, scelgono in qualche modo di uscire dal calcio, e questo certamente aiuta, ma basta guardare i numeri della Juventus, non solo quelli sportivi ma anche quelli economici, per capire che la Juventus in 10 anni ha azzeccato tutte le scelte o quasi, in campo e fuori. E noi lo diciamo da tempo e alcuni lo stanno facendo. Il problema non è dire che la Juve ruba sempre, il problema è cercare di imitare quel modello di società e di business per crescere in fretta. Qualcuno lo sta facendo, l'Inter sta crescendo molto in fretta, l'Inter ci regalerà nei prossimi anni un grande duello del campionato italiano. Però ma è frutto di un lavoro che fa piacere porta... dire da sì, Turone in poi quella roba lì, meno male che la dici tu. Io credo che ci sia sinceramente una parte di quelli che seguono il calcio in questo bizzarro paese il cui core business del weekend non sia la loro squadra e nemmeno la Juventus, quanto l'arbitro che arbitra la Juventus. Detto questo, per noi qui quel rigore non c'era, l'abbiamo detto chiaro, come il gol di Montari era chiaramente un gol del 2-0 e ha chiaramente avuto un peso in quella stagione, e come Pjanic andava espulso da Orsato nella serata di Inter-Juventus. Su Turone io non mi esprimo perché le immagini non dicono nulla. Detto questo, anche avessero espulso Pjanic non è detto che la Juventus perdesse quello scudetto, quello dei 91 punti del Napoli. Giuseppe Potenza, dai che poi andiamo veloci, andiamo sull'Udinese. Giuseppe, buonasera. Vai. Niente, prima di tutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Da tanti anni, anche soprattutto a quella del pomeriggio, è una trasmissione che non dà per niente fastidio ascoltarla. Meno male. No, non diamo niente fastidio. No. Niente, volevo parlare sul caso della Fiorentina Juventus. Sì. Siamo sempre alle solite. Sì, quando non c'era il VAR, super ladri, super. Però adesso che c'è il VAR, l'hanno controllato, l'ha ricontrollato l'arbitro. Per fare tante polemiche non mi sembra. Poi volevo anche aggiungere, chiaramente sono tifoso della Juve, volevo anche aggiungere, non sono preoccupato neanche tanto per l'Inter quanto della Lazio, questo volevo dire. Sì, hai paura da tifoso juventino che sia la vera più la Lazio antagonista. Può metterci il bastone tra le... Può essere, anche perché poi la Lazio, due partite con la Juve nell'arco di pochi giorni, sono arrivate 2 vittorie nette, indiscutibili dal punto di vista del gioco. Grazie Giuseppe, ci fermiamo un minuto e poi andiamo a Udine. Allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Un'emozione forte, bianco nero per la vita. Se poi la notte magica, l'Europa è una partita. Una città, una terra, 100 anni in una sera. Lo stadio canta una canzone, alziamo la bandiera. Vinci per noi, magica Udinese. Allora, andiamo un po' a Udine. Saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito Magda Pozzo, che è una delle figlie del patron dell'Udinese e che sempre più, insomma, sta entrando nel calcio italiano, sta prendendo in mano quella che è una delle realtà più belle della nostra Serie A. Magda, buonasera. Buonasera. Beh, intanto spero di essere l'unica figlia. Sì, figlia nel senso, in senso lato, c'è anche il fratello, diciamo. No, esatto. Sto scherzando, che, certo. Suo fratello si occupa del Watford, no? Esatto. Sì, buonasera a voi. Buonasera, no, unica figlia femmina, poi c'è un unico figlio maschio e così abbiamo ricostruito tutta la famiglia Pozzo. Oh, l'idea di chiamare Magda Pozzo, carissimo Carlo, ci è venuta perché abbiamo scoperto quale club è riuscito a convincere a presentarsi allo stadio Allegri. Oggi AS ha scritto ad esempio che Allegri ha detto no al Barcellona prima che il Barcellona scegliesse Quique Setién, e invece l'altro ieri, mi corregga se sbagliamo Magda, Allegri è venuto a Udine, chiamato dai Pozzo. Sì, è venuto, devo dire che è venuto a Udine, insomma ci unisce una grande amicizia, anche perché lui era esordito ancora ai tempi di Galleone come secondo allenatore qui a Udine. Quindi insomma è sempre rimasto, il contatto è sempre rimasto insomma ottimo, e devo dire che è stato... è venuto per questo, diciamo, questa convention che abbiamo organizzato per il B2B Lab, in modo da insomma far conoscere tutti questi manager tra di loro, i nostri partner, quindi accettato, diciamo, volentieri, perché era una cosa anche fuori un po' dallo schema calcio, no? Era una cosa innovativa, un progetto innovativo, insomma, ed è stato veramente utile alla causa, direi, oltre a essere sempre, insomma, un grande piacere vederlo. Non era obbligato a rispondere ad Adani, ad esempio, e alle sue critiche. Comunque questa è abbastanza una fotografia della complessità del mondo udinese, che non si riduce al calcio, all'Udinese, eccetera. È una cosa allo un po' scouting, diversa. È tutto quello che abbiamo raccontato per tanti anni. Ma anche a un mondo molto... molto più complesso e internazionale, mi pare. Una visione abbastanza unica, no, di questo sport. Sì, io ne parlavamo proprio l'altro giorno anche con Allegri. Secondo me è molto cambiato, no? Oggi un allenatore, un giocatore, un dirigente di una squadra di calcio non possono essere solo tali, no? Devono avere una diciamo una visione molto più generale, devono essere molto più preparati, ma solo parlando di Allegri, io l'ho visto 10 anni fa a Milano, 8 anni fa, e devo dire che ha acquisito anche a livello proprio di public speaking, no? di saper motivare, di saper parlare, di raccontare degli aneddoti, che ti viene anche con una scuola in varie società, che probabilmente non si riduce più a essere solo allenatore, no? A allenare una squadra. Secondo me è molto più completo, e così succede per noi, no? Nelle squadre di calcio, che secondo me, come nel nostro caso, questo progetto di cercare di far vivere lo stadio 365 giorni all'anno, non solo con il calcio, ma bensì veramente una casa per il tifoso, per il territorio, ma anche per le aziende. E così un po', secondo me, è una visione un po' diversa che tutte le società dovrebbero avere, no? Sì, non bisogna mai sottovalutare il valore di essere riusciti a Udine e in poche altre città italiane a fare lo stadio nuovo. Sì. Visto quello che raccontiamo quotidianamente anche da realtà più grandi. È verissimo, e nonostante comunque le grandissime difficoltà, no, che sempre si hanno, perché poi esistono tutte queste leggi per gli stadi nuovi, ma poi vedete le difficoltà che tutte le società hanno, perché anche noi le abbiamo avute e le continuiamo ad avere, perché poi si deve scontrare con le leggi comunali, con le leggi regionali, con i permessi, e quindi secondo me insomma va rivisto un po' questo sistema che evidentemente non sta funzionando se esistono così pochi stadi nuovi in Italia e così tanti rendering in attesa di diventare progetti veri e propri. Qual è la vera dimensione dell'Udinese, Magda Pozzo? Una provinciale di lusso, è una grande un po' meno grande delle altre, magari quando guardate l'Atalanta e i suoi risultati di questi anni un po' insomma vi fa da stimolo. Esatto. Beh, diciamo che noi, io penso che abbiamo sempre preso, diciamo, le provinciali hanno sempre preso esempio, spunto da noi, no? Mentre negli ultimi anni direi che proprio l'Atalanta ha preso il nostro posto un po', no? In questa a livello anche sportivo. E noi, diciamo, siamo molto ambiziosi, nel senso che secondo me avendo un'organizzazione così come abbiamo a tutti i livelli, no? Perché anche a livello proprio di struttura, abbiamo palestre, ristoranti, spogliatoi all'ultima, diciamo, di ultima generazione, e cerchiamo di far veramente trovare una, diciamo, avere la massima professionalità, ma anche Allegri l'altro giorno è rimasto insomma ad Accia Arena, e tutto quello, no? Che c'è intorno è un gioiellino, posso testimoniare. Esatto, e quindi secondo noi, cioè, tutto ciò deve anche servire per la squadra, per i giocatori, adesso a stimolarli, perché i nostri obiettivi evidentemente sono altri, no? Cioè, non vogliamo, non siamo probabilmente squadra da prima in classifica, ma da metà classifica sicuramente, no? E questo insomma vorremmo poterlo diciamo sì, documentare attraverso la classifica, anche perché sennò poi sappiamo come funziona, no? Anche il pubblico, anche una città, una regione, un ambiente come quello di Udine può finire per adeguarsi e adattarsi, quasi immalinconirsi di fronte a risultati non all'altezza. Sì, siamo lì, restiamo in Serie A, il che è già tanto, però non sappiamo bene dove si va. È importante dare un indirizzo. Sì, e poi insomma c'è tutto per far bene, no? C'è un direttore che insomma ha una grande esperienza, un direttore sportivo che ha una grande esperienza, un allenatore che può avere grandi stimoli, noi insomma che è una società che penso che ha provato negli anni, no, di essere molto presente, una, diciamo, dei tifosi che ci hanno sempre aiutato e supportato, quindi insomma è una città tranquilla, uno stadio nuovo, una dimensione, penso c'è tutto per far bene con una grande squadra, no? Dei ragazzi giovani, motivati, abbiamo sempre penso creduto, no? Nei giovani talenti, e continuiamo a farlo, quindi secondo me ci sono veramente tutti gli ingredienti per far bene, e sono convinta che insomma, non voglio dire che c'è l'anno giusto, ma siamo sulla strada giusta. Sì, a inizio gennaio il direttore Pierpaolo Marino ci raccontava che tenere De Paul a Udine è stato un grande atto d'amore, un investimento e un sacrificio. De Paul è rimasto anche nel mercato di gennaio, poi vedremo cosa capiterà l'estate prossima. Ho leggero un paio di messaggi, Magda Pozzo, che sono arrivati 349-238-6666. Da papà di Udine mi piacerebbe di più vedere un udinese che valorizza giovani locali. Bella domanda anche a noi, non è sempre facile trovare ragazzi giovani e talentuosi, no? Anche nella nostra città, però insomma l'abbiamo fatto, noi continuiamo a fare, vede in passato Scuffè, insomma crediamo molto nei giocatori anche della nostra terra. Altro messaggio, certo, altro messaggio, cosa vi ha colpito di più di Gotti, che è l'allenatore suo malgrado, l'abbiamo capito, è una storia meravigliosa, pacatezza, filosofia di calcio o altro? Allora, a me, devo dire, di Gotti è una mosca bianca sicuramente, adesso non lo conoscevo personalmente, no? Ho avuto modo in questi mesi, ultimi mesi, di conoscerlo. È una mosca bianca perché evidentemente è una persona di uno spessore, di una cultura, di un'intelligenza, insomma, direi superiore, no? Ma si è rassegnato? Io penso che, onestamente, io penso che magari anche lui veramente ci credeva anche lui, no? Di voler essere sempre secondo, però penso che non gli dispiace, ha detto tra noi, essere primo allenatore. Ci ha ripensato, cambiare idee lecito. Tanto sta facendo bene. Ma sì, sta facendo il suo, sta facendo certamente quello che deve. Si sta convincendo, dai. ha smesso di telefonare e mandare mail tutti i lunedì mattina perché chiedendo di essere esentato e sostituito. Alle 5 del mattino io voglio essere secondo. No, dai, cerchiamo insomma, ma capisco anche che effettivamente non è facile, no? È uno, io penso che un resetting anche mentale che uno deve, che non è assolutamente facile da secondo diventare proprio il primo responsabile di tutto. Però ci sono anche tanti vantaggi, che conosce questi ragazzi, ha avuto una, no, una relazione fantastica come secondo, quindi a volte è molto più facile capire anche i meccanismi da secondo che da primo allenatore, no? Quindi io penso che ci sono tanti ingredienti positivi. No, ma è una storia bellissima, in fondo voi gli avete risposto, intanto tu vai avanti che noi ci pensiamo, nel frattempo è passato Natale, adesso era Pasqua, poi... E poi vedremo che cosa succede. Allora, ringrazio Magda Pozzo, grazie per, grazie per questa chiacchierata. Grazie a voi, vi aspetto a Udine presto. Grazie, non mancheremo, anzi ci veniamo molto volentieri a dare un'occhiata a quella che è la realtà udinese. Intanto 43esimo minuto appena cominciato, 2-0 del Lecce sul Torino. I gol li abbiamo raccontati nei primi 19 minuti di Deiola e Barak. Toro che sta provando a reagire ma è ancora fuori partita, ancora, eh? Ha rischiato anche di prendere il terzo gol. Sì. Abbiamo il traffico, poi il momento attesissimo di VAR Anatomy con Luca Marelli. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Convocati. VAR Anatomy con Luca Marelli. Io sono qui da 6 mesi, non faccio mai critica all'arbitro, ma l'arbitro non può decidere le partite, ok? Io sono disgustato. Abbiamo avuto la squadra con il Genoa e non ci hanno dato rigore. Abbiamo fatto quel con l'Inter e c'era rigore e non l'hanno dato. Qui ci hanno dato 2 rigori. Forse il primo ci voleva, ma il secondo sicuramente no. Non si possono, gli arbitri non possono decidere le partite. Loro devono lasciare i ragazzi che le partite si vincono nel campo. Dobbiamo prenderci un tazza di tè dopo. Ovviamente capisco che sei su di giri, però devo dire che non si devono fare questi tipi di dichiarazioni perché fa male al calcio, fa male a tutti noi. Perché così allontaniamo la gente dai stadi. È arrivato il momento di VAR Anatomy, attesissimo con Luca Marelli. Ciao Luca. Ciao. Allora, ciao a tutti. Abbiamo una lunga serie di episodi, l'ho detto prima, credo siano 8, e quindi cerchiamo di raccontare tutto. Abbiamo 9 minuti di tempo a disposizione. Allora, partiamo al 10° del primo tempo. Proteste della Juventus per un contrasto Cutrone-Pjanic, c'è un silent check, poi si riparte con un calcio d'angolo. Arbitro Pasqua, Alvar Calvarese. C'è niente. Oggettivamente non c'è un minimo contatto, ma sono quei contattini che non prendo neanche in considerazione per un calcio di rigore. 31esimo del primo tempo, contatto abbastanza robusto all'interno dell'area di rigore tra Cristiano Ronaldo che taglia verso l'altezza del dischetto del rigore e il difensore della Fiorentina neo acquisto Igor. Guarda, visto alla velocità normale questo sembra un rigore enorme, in realtà è una furbata di Ronaldo, si vede dalle immagini, dall'immagine larga, non da quella che circola sui social che come al solito svia completamente l'attenzione. Quello che si vede dall'immagine alta, cioè quella iniziale, quella dell'azione in tempo reale, è Ronaldo che una volta che il pallone arriva sulla sinistra punta lui il difensore, lo guarda in continuazione, lo guarda fino a quando c'è il contatto. Igor sicuramente allarga il braccio perché se lo vede arrivare addosso, non c'è assolutamente niente. Poi 39esimo del primo tempo, il primo calcio di rigore concesso alla Juventus per un tocco di braccio di Pezzella su conclusione di Pjanic, sfugge alla vista di Pasqua, viene richiamato all'on field review da Calvarese e vira sul calcio di rigore. C'è anche il giallo di cui ci chiedono tanti della posizione di presunto fuorigioco di Rabiot. Allora, ci sono tre elementi. Il primo, che il calcio di rigore c'è perché il braccio è largo, è in posizione naturale, sappiamo che può piacere o meno in questa interpretazione, ma l'interpretazione che c'è ormai da 15 anni, perciò è un'interpretazione che porta sempre al calcio di rigore. Il cartellino giallo per il difendente è perché il tiro è diretto verso la porta, non si può sapere se sarebbe entrato o meno, ma in ogni caso per un tiro in porta, come per Parma-Torino, l'ammonizione di Bremes, c'è l'ammonizione che è da regolamento. La posizione di Rabiot è totalmente influente per due motivi. Il primo è che al momento del tiro di Pjanic il portiere ha la visuale completamente libera. Il secondo motivo è che non entra mai nell'azione perché il pallone viene respinto molto prima. Il portiere non può avere essere oscurato nella sua visuale se non ha dovuto neanche intervenire. Perciò la posizione di Rabiot totalmente Quindi rigore che c'era, questo conferma la lettura che abbiamo dato anche con Pierluigi Pardo nella prima parte della trasmissione. Quinto minuto del secondo tempo, intervento di Gezal su Cuadrado, viene ammonito Gezal, Cuadrado resta a terra, viene soccorso in campo, poi non esce dal terreno di gioco quando riparte la partita. Novità regolamentare da di 2 anni e mezzo fa, nel momento in cui un giocatore deve essere soccorso dopo aver subito un intervento giudicato irregolare e sanzionato disciplinarmente, non deve uscire dal campo, non è tenuto a uscire dal campo, deve uscire dal campo solamente nel caso in cui richieda l'intervento dei sanitari e il giocatore che ha commesso il fallo non è stato ammonito o espulso. Dodicesimo del secondo tempo, c'è uno scontro aereo più o meno sulla tre quarti tra Ronaldo e Ceccherini. Ronaldo salta con il gomito abbastanza largo, Ceccherini viene colpito, resta a terra. Il direttore di gara concede calcio di punizione alla Fiorentina e non prende alcun provvedimento disciplinare. Io sono rimasto abbastanza sorpreso perché di solito sui gomiti larghi, diciamo, si tira fuori il cartellino giallo. Sì, è un fallo imprudente, sicuramente il cartellino giallo era doveroso, sì. 24esimo del secondo tempo, la Juventus protesta, alcuni giocatori in campo protestano per un tocco di braccio di, credo sia Cutrone, su un colpo di testa ravvicinato di De Ligt, parliamo proprio dei pressi della linea di porta di Drongoski. C'è niente, prima di tutto perché c'è una distanza veramente minima e poi comunque il braccio sinistro di Cutrone è lungo il corpo, non aumenta minimamente il volume corporeo, niente. E poi arriviamo all'episodio degli episodi, 35esimo del secondo tempo, il risultato è in quel momento 1-0 per la Juventus sulla Fiorentina, viene concesso un calcio di rigore alla Juventus per il contatto di Ceccherini su Bentancur all'ingresso dell'area di rigore, Calvarese al VAR richiama Pasqua all'on-field review e Pasqua, dopo aver visto le immagini, conferma la sua decisione. Allora, intanto, se è stato guardato il posizionamento geografico dentro fuori dell'area di rigore o il fallo, e poi che idea hai tu del fallo? Allora, per quanto riguarda la review, non può essere per la posizione geografica perché è devoluta solo ed esclusivamente al VAR. Se il fallo fosse stato commesso fuori, cioè se il fischio fosse stato commesso, se fosse stato la conseguenza di un contatto all'esterno dell'area, semplicemente avrebbero spostato, come è successo ieri in Cagliari-Parma, avrebbero spostato il pallone dal calcio di rigore. Quindi questo per chiarire per bene, perché gira questa storia che, no, guardate che ha semplicemente controllato se fosse dentro o fuori. Se è stato così, Calvarese avrebbe detto autonomamente a Pasqua che cosa fare. Invece lo richiama a vedere le immagini, il che significa che si ragiona sull'entità o meno del contatto. Vai. Esatto. Allora, secondo me ci sono 3 errori in questa decisione. Il primo errore è che non c'è rigore. Togliamoci subito ogni dubbio. Il secondo errore è l'on-field review. Per la strana interpretazione del protocollo secondo il quale non si deve intervenire nel momento in cui c'è un contatto che deve essere valutato. Un contatto c'è stato, perciò la review, a norma di protocollo, a norma di interpretazioni correnti, non ci sarebbe dovuto stare. Diciamo che è stata un po' forzata la review, e una volta che c'è stata la review, sinceramente diventa difficile capire per quale motivo sia stato concesso questo calcio di rigore, perché sicuramente il difensore Ceccherini allarga il braccio sinistro, ma si tratta di un contattino, ma proprio sul quale Bentancur cade come se fosse stato sgambettato. È un episodio un po' differente da quello di Intercagli la settimana scorsa. Così chiariamo che per noi era da rigore, chiariamo, quindi per noi c'è una differenza, per noi intendo, per noi di VAR Anatomy. Prego Luca. Assolutamente, c'è una differenza perché l'ho scritto anche la settimana scorsa, molto chiaramente a mio parere quello di Inter Cagliari è un rigore molto più evidente perché il difensore del Cagliari si frappone con tutto il corpo, non soltanto con un braccio che si allarga, che non può far cadere un giocatore, mentre invece uno scontro di un giocatore che si dirige con tutto il corpo verso un avversario è completamente differente. E in ogni caso scrissi che ci sarebbero state, sarebbero state possibili diverse interpretazioni perché l'entità di un contatto di questo genere può essere valutato diversamente. Su quello di oggi no, su quello di oggi non c'è assolutamente nulla che possa portare a un calcio di rigore. Allora, questa è la nostra moviola di Juventus-Fiorentina e quindi qui chiudiamo tutto il tema delle parole di Commisso. Abbiamo ampiamente parlato fino a 10 minuti fa. Ti chiedo in estrema sintesi, perché stiamo per chiudere, sull'espulsione di Amrabat, 23esimo del secondo tempo in Milan-Verona, chiamata al VAR Valeri, arbitro Chifi, per intervento su Castileco. Allora, è un fallo interpretativo anche questo sull'entità, però c'è un particolare che giustifica l'intervento del VAR e del field review, che Chifi non ha visto assolutamente nulla, cioè questo è un episodio che è completamente sfuggito e perciò il VAR ha fatto questo ragionamento. In questo episodio Chifi potrebbe valutare un grave fallo di gioco e perciò lo ha richiamato alla review. Chifi ha visto le immagini, l'ha ritenuto un grave fallo di gioco, a mio parere correttamente. Grazie Luca. Ciao Luca. A voi, buona serata e buon lavoro. Ciao, saluti ciao. Anche al gatto di Luca. Sì, saluti anche al gatto. Intanto è finito il primo tempo a Lecce 2-0. C'è stato un gol annullato proprio nel finale al Toro per una posizione di fuorigioco attiva sugli sviluppi di un calcio di punizione. Racconteremo nei GR il finale di Lecce-Torino e racconteremo questa sera ore 20:45 Udinese-Inter. Io ringrazio Edoardo Lavezzari che ha lavorato alla costruzione di questa puntata, Roberta Frisani e Gianmarco Ferronato in regia. Carlo torna domani dopo il GR delle 14 con tutti i convocati. Noi invece ci risentiamo domenica prossima alle 17. Ciao! Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy! Saluti!